Aloha, buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bird Special, questa è la prima colazione che serviamo tutti i giorni dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello del caffè nero bollente, quello della grande musica e quello delle chiacchiere sulle vostre rock and roll star preferite. Buon giovedì e buon Fleetwood Mac, perché sono loro ad aprire le danze quest'oggi. Questa è Gypsy. Underground, back to the floor that I love. Belle storie di rock and roll all'Early Bird Special, come quella volta di quel giornalista che incontrò Janis Joplin alle 8 di mattina in un bar di San Francisco. Voi vi lamentate, ma fra un po' vi racconterò quello che è successo a questo povero disgraziato. Ma prima, Billy Idol, Dancing with Myself. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a one to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose, we say there's nothing to prove. When I'm dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Dancing with myself, Billy Idol, perennemente imbronciato, si è proprio fatto una maschera con quel labbro alla Elvis Presley. Ma parlavamo di Janis Joplin, Janis Joplin, a dispetto della credenza popolare, non era una hippie, anzi non è che avesse poi tutto questo grande amore per i figli dei fiori. E la cosa venne a galla durante un incontro tra un giornalista della nota rivista Rolling Stones, un certo David Dalton, che raccontava che il giornale, la sua rivista, le aveva chiesto di seguire Janis Joplin nel tour del 1979 con la Full Tilt Boogie Band. Ovviamente doveva avere il permesso della stessa Janis, che gli diede appuntamento alle 8 di mattina, prendete appunti, 8 di mattina in un bar di San Francisco, il Shamrock Bar and Grill. Janis Joplin lo aspettava al bancone. Come lui arrivò, lei ordinò immediatamente, tenetevi, due Jack Daniels doppi. Così non perdiamo tempo, commentò la cantante. Janis mandò giù di colpo il primo whisky doppio e cominciò a inveire contro la politica editoriale della rivista, che ricordo era Rolling Stone. Poi iniziò a lavorarsi il secondo bicchiere. David, il giornalista, non era neppure a metà del primo. E così Janis Joplin lo rimproverò chiedendogli se la sua relazione con quel bicchiere sarebbe durata ancora a lungo, aggiungendo che non sopportava gli hippies perché fumavano solo marijuana e normalmente si mettevano a parlare con la tappezzeria del motel, come facevano i componenti della sua band. E così dicendo, Janis finì anche il secondo bicchiere. David, per compiacere alla cantante, ingollò fino all'ultima goccia del liquore. Ebbe il permesso di seguire il tour, ma passò il resto della mattina a vomitare al cesso del Shamrock Bar and Grill. Io da un po' di tempo a questa parte la mattina preferisco il caffè nero bollente al Bourbon, magari ascoltandomi Janis Joplin, perché no? Questo è Piece of My Heart. Come on! Early Bird Special. Come credo sappiate, ma è meglio ripetere, il vecchio Chucky Bird, il vecchio Chucky Boy, il vecchio Chuck Bird, insomma, quello che volete voi, è raggiungibile con internet, questa tecnologia meravigliosa. Insomma, se avete una tastiera, un computer, una connessione alla rete, potete digitare Bird, @radiorockfm.com. Come ha fatto Capitan Delirio da Genova, che mi scrive, salutare anche gli amici del campetto. Ma alle 6 sono già al campetto. Ma voi siete malati. E poi c'è Benedetta che, nonostante faccia parte del fan club dei Finlay, non si perde una puntata dell'Early Bird Special, nonostante qui Finlay non ci sono mai passati. Buongiorno passerottine e passerottine, continuate a scrivere che la Dolce Cherie stamperà le vostre lettere e io avrò l'immenso piacere di leggerle qui in diretta all'Early Bird Special. Uriah Heep, Return to Fantasy. Painting, your creator is waiting. The brush and pen describe what it is inside that will set your mind thinking while the others are sinking. Moonlight night after moonlight night, side by side they will see us rise. But if they cared to look, then they would see our return to fantasy, fantasy, fantasy, oh yeah, fantasy, fantasy, fantasy. La dolce Cherie che mi stampa le missive e mi prepara il caffè. Ragazzi, io sono in paradiso, nonostante sia veramente un orario impossibile. Sto veramente bene. Anche perché ci siete voi dall'altra parte che mi state ascoltando, mi date il vostro supporto, passerottine e passerottine. Thank you very much a voi e molte grazie, Cherie. We'll be right back. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Lo sanno bene i nostri passerottini e le nostre passerottine, lo sanno bene anche tutti i DJ qui di Rock FM che si sbattono tutti i giorni 24 ore su 24 per servirvi il meglio. Gli AC/DC mi hanno fatto venire in mente che The Jack, AC/DC, The Jack, mi ha scritto una vita fa, ma la sua lettera è rimasta nascosta fino ad oggi. Spero non sia troppo tardi per rispondergli. Allora, lui si domandava il titolo di una canzone che il vecchio Chucky Boy non presenta mai. Beh, in effetti, A Wider Shade of Pale, seppure degli HSAS, pensavo fosse una canzone piuttosto nota. L'originale era dei Procol Harum, che proprio quest'anno compie i suoi primi 40 anni. Nei negozi di dischi c'è in questi giorni un bellissimo cofanetto con tutti i grandi successi della band di Gary Brooker, che si apre proprio con Wider Shade of Pale. Un giorno o l'altro vi racconterò la storia di questa canzone. Per il momento godetevi Boston! Early Bird Special, musica e baggianate. E quando ne ho l'occasione anche la cronaca di grandi momenti della storia della musica rock, come l'ultimo concerto che suonò la Jimi Hendrix Experience in Germania. Ve lo racconto appena dopo i Deep Purple, Strange Kind of Woman. Stamattina ho voglia di raccontarvi dell'ultimo concerto di Jimi Hendrix con la sua Experience, avvenuto il 6 settembre 1970 all'isola di Fehmarn, in Germania. Diciamo subito che la band era piuttosto provata da un tour che li portò a fare 6 concerti in 6 giorni in 4 paesi differenti. In più, il bassista Billy Cox era reduce da un viaggio in acido iniziato all'isola di Wight e non ancora terminato. Appena arrivato all'isola tedesca cominciò a gridare: «Non usciremo dall'isola vivi! Sta per essere invasa dai nazisti!» Beh, dall'isola uscirono vivi, ma non incolumi. Un roadie chiamato Gary Stickles, incaricato di prendersi cura di Billy Cox sul palco, venne colpito da un grosso tronco chiodato lanciato da un biker presente tra il pubblico. E i biker fecero anche di peggio. Diedero fuoco al palco e spararono alle gambe di Rocky, un altro roadie, mentre cercava di salvare l'attrezzatura dal fuoco. La band tornò a Londra, ma Billy Cox era sempre più fuori di testa, tanto che non riusciva a dire altro che «Jimmy, sto per morire». Hendrix allora lo rispedì alla casa dei genitori, in Pennsylvania. Il tour venne cancellato e Billy non rivide mai più Jimi Hendrix, perché Jimmy morì solo un paio di settimane più tardi. Ooh. Early Bird Special, naturalmente, come tutte le mattine, dalle 6 alle 7, qui dalle frequenze di Rock FM. Grande musica come Kansas, che ci siamo appena ascoltati con Play the Game Tonight, e anche qualche cosuccia nuova, come questo gruppo che arriva dalla Scandinavia. Si chiamano Him e Join Me. Valo, leader delle folle e soprattutto delle ragazzine. Chuck Bird, l'idolo dei passerottini e delle passerottine. La modestia l'ho lasciata fuori dallo zerbino qui di Rock FM. Ragazzi, giovedì per me termina qui. È stato un piacere condividere questa Early Bird Special insieme a voi e vi lascio con i restanti programmi qui da Rock FM, che nell'immediato proseguiranno con Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto, ci sentiamo domani mattina che è venerdì, sempre dalle 6 alle 7, sempre da Rock FM. Aloha!